Bene. Si sta bene adesso quest'ora con un po' d'ariettina. Sì, no, si sta un gran bene. Abbiamo lasciato Rigoni che traffica con il suo setup nell'angolo al sole, perché se lo merita, si merita di cuocersi al sole. E noi siamo qui proprio sull'angolo tra i due caffè deliziosi, devo dire, e anche molto cortesi entrambi, che stanno qui sull'angolo della, anche con della possibilità di fare delle ottime colazioni, perché devo dire sono che, molto buoni. Anzi, se voi del caffè ci sentite, prendetevi i nostri complimenti, perché vi abbiamo, come dire, assaggiato l'uno e l'altro, e devo dire che siete stati benissimo in entrambi i luoghi. C'è un corso qui a Ormea, c'è un corso che non è quello dove passano le macchine, un corso pedonale molto bello, con un sacco, in realtà con un sacco di infrastruttura, perché c'è la farmacia, due negozi di computer, vari negozietti carini, un altro bar in cui andremo dopo. Insomma, non è un posto di quelli senza più nulla di cui siamo abituati noi a visitare, ma è un luogo che ha anche edifici di un certo, di una certa, non solo anche imponenza. Vuoi dire te che sei esperta, per esempio, mi piace moltissimo l'albergo nazionale, dove adesso c'è il municipio, è proprio una bella costruzione.